Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Dichiaro ufficialmente aperta l'Esposizione Universale Expo Milano 2015. Siamo pronti alla vita. Sì, siamo pronti alla vita e siamo pronti a dire benvenuti. Abbiamo potuto proprio dal balcone di casa nostra vedere sei uomini completamente vestiti di nero e con maschere antigas fiondarsi sulle macchine con martelli e mazze. Gente infiltrata fondamentalmente che ha rovinato la città. È stata stupida la loro idea. È difficile togliere le scritte, però ci proviamo. È qualcosa solo di simbolico, perché di certo non possiamo tirare la città a lucido, però è un messaggio. La prima persona a cui voglio dire grazie è il sindaco di Milano Letizia Moratti, che ha avuto l'intuizione di questo evento e che ha avuto il desiderio 10 anni fa di scegliere questi temi. Ecco, Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, la donna, come ha detto il Presidente del Consiglio, che ha voluto più di ogni altro l'Expo di Milano. Buongiorno. È stata più forte dei teppisti Milano, insomma, il segno di un paese che reagisce? Buongiorno a tutti. Sì, i milanesi, aiutando a pulire e riparare i danni, hanno mostrato un grande senso civico, amore per la propria città, orgoglio, ed è certamente il segno di un paese che ha voglia di reagire. Insomma, farà bene all'Expo questa reazione. Assolutamente, ecco. Sì, alla città, all'Expo. Senta, Renzi, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito, l'ha ringraziata per aver voluto l'Expo, però lei era nascosta tra la folla, che però l'ha applaudita. È stata una soddisfazione importante per lei? Ma più che soddisfazione, è stato un momento di grande commozione. Ecco, per ottenere l'Expo e avere i voti necessari perché fosse assegnata a Milano, lei ha visitato 80 paesi nel mondo. Viene da lì il fondamento di questo successo? Ma guardi, sicuramente visitare i paesi è stato fondamentale. Però il successo di Expo deriva dai progetti di collaborazione che abbiamo realizzato o impostato con ogni paese e deriva dal tema che abbiamo scelto, nutrire il pianeta, energia per la vita. Ecco, lei però, dottoressa Moratti, puntava, se non ricordo male, sulla nutrizione, sulla formazione del capitale umano. Questa Expo invece è focalizzata sull'alimentazione. Insomma, non è l'Expo che sognava lei. Guardi, io spero ancora in un Expo che favorisca il dialogo e la conoscenza tra i popoli diversi, e questo è fondamentale. Un Expo che aiuti concretamente i paesi che hanno più bisogno, un Expo che sensibilizzi tutti sull'importanza di prendersi cura della nostra terra, dei nostri mari, nel rispetto anche delle generazioni future. Ecco, però lei ha sentito i paesi che avevano votato per Milano, però poi si sono sentiti traditi da questa impostazione sull'Expo, perché lei l'aveva data un po' diversa, come abbiamo detto. Sì, ci sono paesi che chiedono la realizzazione dei progetti che erano stati presentati e concordati. E lei infatti dice: non si aiutano così, l'ho letto sul Corriere della Sera ieri, i paesi a svilupparsi. Perché? Quindi un obiettivo mancato, parliamoci chiaro. Sì, perché ogni paese deve poter costruire il proprio capitale umano e sociale, creando lavoro e creando benessere. Però noi possiamo aiutarli trasferendo conoscenze, trasferendo competenze, naturalmente nel rispetto delle loro tradizioni e della loro sovranità nazionale. Ecco, ma hanno senso tanti soldi così, perché sono stati veramente tanti, per un Expo che sembra, grosso modo, pur nel suo splendore, un grande ristorante all'aperto? Ma io credo che Expo ha 6 mesi di tempo per recuperare, e credo che a questo fine sarà importante la decisione che verrà presa sulla destinazione delle aree e espositivi alla fine dell'evento. Ecco, Sì, vabbè, insomma, se l'Expo si misura su quello che capiterà dopo... come la Caritas, come Save the Children, tutto il mondo del no profit. D'accordo, lei però ha detto, puntiamo appunto sul dopo Expo, con i nostri progetti rimasti nel cassetto. Ma mi racconta qualche progetto rimasto nel cassetto? Sì, ma allora, il tema era quello di creare un centro per lo sviluppo sostenibile che possa, perché è ancora possibile, aiutare per esempio a fermare la desertificazione, ad assicurare il cibo, l'acqua, l'energia per tutti. Lei pensi che per esempio in un villaggio del Mali abbiamo installato dei pannelli solari che costano 3.000 euro e che hanno permesso ai medici di far partorire le donne di notte, dimezzando la mortalità da parto, e ai maestri di poter correggere i compiti di sera nelle scuole aumentando il tasso di scolarità. Oppure, non so, l'Università di Agraria di Milano ha lavorato con le donne di un villaggio del Niger per aiutarle a aumentare la produttività delle loro mucche fino ad arrivare a realizzare una piccola fabbrica di yogurt, o ancora i progetti dei panificatori milanesi che hanno aiutato a fare una scuola per i ragazzi di Haiti che hanno imparato a fare il pane e le pizze. Ecco, questi sono i progetti rimasti nel cassetto, insomma, sì, ma che da realizzare. Essere recuperati attraverso un centro per lo sviluppo sostenibile, che potrebbe essere un nodo di una rete globale di centri di ricerca, di università che possono essere disseminati nel mondo. Questa può essere l'eredità di Expo. Ah, senta, lei crede ai 20 milioni di spettatori, visitatori, diciamo? Sì, certo, e spero anche di più. Spera anche di più. Senta, anche la comunità... No, prima ancora una domanda vorrei farle. Renzi l'ha ringraziata, l'abbiamo detto. Si è dimenticato di ringraziare il presidente Prodi, ieri poi gli è stata una stretta di mano, eccetera. Però, insomma, nel momento ufficiale Prodi era presidente del Consiglio e quindi è quello che in qualche modo ha fatto con lei la battaglia per l'Expo. Certo, un gesto... il ruolo del presidente Prodi è stato fondamentale per la vittoria di Expo. Quindi ringraziarlo sarebbe stato una cosa gentile. Senta, anche la comunità di San Patrignano, mi sembra, è presente all'Expo. Con che cosa? La comunità di San Patrignano è presente con diversi eventi. Ne voglio ricordare uno in particolare sui nuovi modelli economico e sociali, che credo sarà molto interessante. Ecco. Anche perché l'Italia credo è piena di gente buona, generosa, che aspetta solo delle occasioni per potersi impegnare, per poter aiutare chi ha bisogno. Expo è una di queste occasioni. Ecco, nei giorni scorsi, infatti, grazie dottoressa Moratti, appunto a San Patrignano sull'economia positiva solidale si è svolto un convegno internazionale con partecipazione di alto livello. La nostra Marina Milone era lì per noi. In un sistema capitalistico in crisi, l'idea di un modello economico diverso inizia a prendere piede. Il Forum sull'economia positiva è un'iniziativa lanciata nel 2012 da Planet Finance Group, impegnata nella lotta contro la povertà attraverso l'inclusione economica. La seconda edizione italiana si è svolta a San Patrignano, luogo simbolo di solidarietà, il più grande centro europeo di recupero dalle tossicodipendenze e dal disagio. Promotori di questo evento sono Jacques Attali e Letizia Moratti, cofondatrice della Fondazione di San Patrignano. Letizia Moratti, il secondo anno, com'è andata? È stato un incontro molto positivo, relatori da tutto il mondo. Credo che il messaggio principale che abbiamo potuto ascoltare, recepire in questo forum è importante l'impegno personale. Gandhi diceva sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ecco, noi dobbiamo tutti impegnarci personalmente. Rispetto all'anno scorso, quindi, cosa c'è stato in più? Alcune delle azioni che avevamo prospettato l'anno scorso si sono poi concretizzate. Tra gli obiettivi raggiunti, nel decreto legge sulla competitività è stato inserito che per chi possiede azioni per un periodo di tempo lungo è prevista una premialità, e questo favorisce gli investimenti di lungo periodo, uno dei fondamenti dell'economia positiva. Inoltre, il Comune di Napoli ha introdotto un social impact bond, un'obbligazione che viene collocata dalle banche, sottoscritta dai cittadini senza rischi, con un rendimento pari ai titoli di Stato per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti. Tutto ciò dovrebbe far risparmiare al Comune di Napoli 50 euro a tonnellata in un impianto previsto di 20.000 tonnellate. Quindi una riduzione della spesa pubblica con benefici ambientali e creazione di posti di lavoro. Tra il pubblico che ha partecipato al forum, oltre a manager, imprenditori, ovviamente ci sono i ragazzi di San Patrignano con le loro storie. Quello che hai ascoltato oggi al forum ti è interessato? Sì, a me sì. Cosa? Il discorso su internet, sul digitale, di educare la gente anche a qualsiasi età, perché a me mi fa paura, perché come mi hanno fatto vedere non sono capace, però mi interessa. Che significa non sei capace? Se mi metti su internet, sì, su Facebook, su YouTube ci so fare, però se voglio condividere qualcosa, qualche idea, qualche che è importante, lì no, non so come fare. Uno dei valori per ripensare il modello di economia capitalistica è il rispetto per l'ambiente. Andrea Crosta è direttore esecutivo di Elephant Action League, un'organizzazione no profit americana creata per combattere i crimini contro la fauna selvatica e le foreste. Si tratta di vere e proprie indagini sul campo attraverso una rete di informatori per arrestare criminali che si arricchiscono dal traffico d'avorio, corno di rinoceronte, taglio illegale di legname e pesca illegale. Uno dei progetti più importanti si chiama White Leaks, una sorta di Wikileaks non in conflitto con i governi. Abbiamo una piattaforma online molto avanzata, costruita su questa tecnologia che si chiama Tor, che fa sì che le persone possano mandarci informazioni in maniera totalmente anonima. Le persone in alcuni paesi non possono parlare di questi temi, è molto pericoloso denunciare i crimini contro l'ambiente, lo fanno attraverso di noi. In Italia operate? In Italia operiamo, vorremmo operare di più per il momento. Cosa? Di cosa c'è bisogno in Italia rispetto a questo progetto? Ma per esempio in Italia noi purtroppo ancora importiamo per esempio legname che a nostro giudizio non è tutto di provenienza legale. Alla Terra dei Fuochi ci avete pensato? Allora il nostro ruolo in un contesto del genere sarebbe: ok, se tu hai delle informazioni sulla Terra dei Fuochi, su quello che sta succedendo, e per varie ragioni non hai modo o voglia o non ti senti così, non ti senti di dirlo direttamente o a un giornalista o alle forze dell'ordine, dillo in maniera anonima attraverso di noi, e poi ci pensiamo noi a far avere l'informazione alla persona giusta o addirittura ai media. Se io sono questa persona, come devo fare per contattarvi? Il sito di WildLeaks è wildleaks.org, si arriva anche attraverso la nostra organizzazione americana Elephant Action League, e sul sito c'è una procedura molto molto semplice che bisogna seguire. Potete mandare non solo un messaggio, ma si può mandare anche file, fotografie, video, qualsiasi cosa in maniera anonima, nessuno saprà che siete stati voi. E poi ci penseremo noi a farlo avere a chi di dovere. Ma torniamo al pubblico del forum, e cioè ai ragazzi di San Patrignano che non dimenticano le loro storie. Mi sono accorto che ho perso tanto nella vita per colpa della droga. Sono entrato con 15 anni di tossicodipendenza. Quanti anni hai? 37. Avevo un'azienda con mio zio, eroina e cocaina. Ormai mi sentivo una persona sola, con le spalle al muro. Quindi sei stato tu a volerlo? Sì, io e mia sorella, diciamo, mi ha spinto molto. Se non era per lei, bello. Dopo diciamo 2 anni che non mi rivolgeva più la parola. Ma riuscivi a lavorare? Se avevo la sostanza sì, altrimenti non riuscivo a fare nulla. E fisicamente, diciamo, per liberarti della sostanza? Allora, 3 mesi a casa per togliere il metadone. E a casa poi non potevi ricadere? No, perché mi hanno tolto tutto, chiavi, cellulare, macchine. Che prima devi passare per un'associazione, devi essere veramente convinto di quello che fa. A parlare di innovazione e ricerca, due pilastri di un'economia dal volto umano e che sia generosa verso le generazioni future, c'è Patrizia Grieco, presidente di Enel. Le sfide nel campo energetico sono per l'Italia, ma sono in generale per il mondo. Cresce il fabbisogno di energia elettrica, crescerà nei prossimi anni del 40%. Il problema è che dovremo affrontare questa crescita di fabbisogno di energia elettrica in modo sostenibile. Probabilmente l'unica chiave per farlo è quella dell'innovazione. Quindi ricerca, innovazione, quindi innovazione sulle reti, non solo crescita delle rinnovabili, ma applicazioni di nuove tecnologie anche ai modelli di generazione tradizionale, proprio perché questa crescita di energia elettrica vada di pari passo con una riduzione delle emissioni. Non è proprio un compito facile, ma insomma noi siamo fortemente impegnati su questo. Generale Mauro Del Vecchio, cosa l'ha colpita di più di San Patrignano? Qui l'aspetto positivo è questa coesione che c'è all'interno di questa località, che è poi la coesione che deve esserci anche all'interno di un'operazione di peacekeeping. San Patrignano, oltre ad essere gratuita, offre 45 percorsi di formazione professionale dall'artigianato al design all'agricoltura. Io sono nel settore cucina e adesso sto facendo un corso da sommelier per i vini. Cosa ti piacerebbe fare quando esci di qui? Quando esco mi piacerebbe comunque continuare questo mestiere come sommelier, addetto ai vini e anche come cameriere, dai. Quanti anni hai? 25. Come mai sei entrato qui? Sono entrato perché non avevo più emozioni, niente. La cosa più difficile che hai trovato venendo qui? La cosa più difficile è stato all'inizio fidarsi delle persone che non si conoscevano e lasciarsi andare, dai. Lasciarsi andare anche a raccontare del passato, comunque è una fase difficile, dai, perché si vanno a toccare degli argomenti che tosti, che ci hanno fatto star male, dai. Poi in realtà io usavo la cocaina e l'eroina e la marijuana. Mauro Moretti, amministratore delegato di Finmeccanica, mi fa un esempio di economia positiva? Quasi tutto Finmeccanica è economia positiva perché noi siamo un'impresa che investe molto in innovazione e in progettazione, in ricerca, e lo facciamo su dei progetti che sono a lungo termine. Non facciamo commodities. I commodities sono quelle cose che si fanno con 2 lire in qualsiasi stabilimento della Cina e che si trovano al supermercato senza cosa. E quindi un esempio? Un elicottero. Di economia positiva? Un elicottero è una macchina che deve vivere 30 anni. E deve fare concorrenza per 30 anni con altri signori che stanno e producono in America piuttosto che in Francia, soprattutto in America ci sono, abbiamo i 3, siamo noi. Oppure semplicemente un orologio di quelli che hanno mandato l'altro giorno sullo spazio, o gli stessi parti che stanno nei satelliti. Ovvero tutta la nostra produzione è fatta di queste cose qua. Non abbiamo commodities, abbiamo solamente sistemi complessi ad altissimo contenuto di tecnologia. Questo è positivo. Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, mi fa un esempio di economia positiva nel campo alimentare. Ma per esempio la nascita e la crescita di mercati contadini gestiti direttamente dai contadini è un fenomeno che negli Stati Uniti è stato dirompente. All'inizio degli anni 90 in tutti gli Stati Uniti ci saranno stati un centinaio di mercati contadini, farmer market. Oggi sono più di 12.000 e non sono solo nei quartieri delle elite borghesi che hanno i soldi e che mangiano il biologico, sono anche ad Harlem, sono anche nei quartieri ispanici della California, e quindi penso che questa è un'economia positiva molto importante nel paese che ha inventato il supermercato. E noi in Italia a che punto siamo? Stiamo incominciando, perché da noi è successo un processo inverso. Noi quei mercati lì ce l'avevamo già nel Medioevo e sono diventati proprietà dei commercianti. Dobbiamo far tornare i contadini a essere proprietari loro della loro merce e fare loro i prezzi, non i commercianti. Ma l'economia positiva passa anche per l'artigianato e la creatività, e lo fa proprio da uno dei settori produttivi della comunità. Irene, vengo da Padova e ho 30 anni. E che lavoro fai qui? Io sono in settore decorazioni e non sapevo fare questo lavoro assolutamente, la pelle quindi, e mi sta piacendo moltissimo. Quindi ho imparato a cucire a macchina, il montaggio della borsa. Che tipo di borse fate? Quelle classiche in pelle, semplicissime. E a chi le vendete? A Ferragamo, vanno a Milano, vanno in vari posti d'Italia, insomma. È molto creativo come settore, infatti mi hanno lasciato lo spazio, infatti non pensavo nemmeno di essere così creativa, non mi ero mai sperimentata. Mi hanno lasciato anche lo spazio di inventare qualcosa, quindi sto creando con tipo decoupage faccio proprio degli astucci con plastificando e mettendo della pelle, faccio astucci, faccio borse, mi sto un po' sbizzarrendo, sì. Come mai sei caduta nella droga? Allora, adesso che sto iniziando un po' a conoscermi di più, grazie a questo posto, posso dire che forse non ho saputo vivere, tra virgolette, nella normalità, come tutte le persone normali, tra virgolette, perché presa dagli imbarazzi, dai disagi, da quello che ti richiede, dal carattere che ti richiede la vita fuori, dai ritmi che ti chiede la vita fuori. Forse ero un po' più debole in questo. Letizia Moratti, un obiettivo per l'anno prossimo? Sono tre le aree sulle quali pensiamo di lavorare quest'anno: l'area della formazione e dell'educazione, importando buone pratiche che si sono sviluppate nel mondo, soprattutto per creare non solo giovani che hanno conoscenze, competenze, ma che sanno sviluppare al meglio il loro potenziale. Quindi un sogno che abbiamo è che tutti i bambini e le bambine di questo mondo possano pensare un giorno di diventare capi di Stato, quindi la formazione e l'educazione. Come pensate di metterle in pratica? Pensiamo di farlo attraverso ONG, delle organizzazioni che già lavorano su questo. Per esempio ce n'è una in India che sta lavorando su milioni di bimbi e su migliaia di scuole. Questa organizzazione lavora anche in Europa e quindi può essere una buona pratica da diffondere anche nel nostro paese. Mix 24. DJ Spawn. Allora Pietrangelo, questo lunedì ha avuto un contrasto perché c'era il deserto nelle strade e poi una giostra di facce nei sotterranei della metropolitana. Uomini e donne con ancora i segni della notte, l'uniforme della festa, l'eleganza. E c'era da sentirsi a disagio a entrare nei vagoni, poi ognuno con la propria faccia ordinaria dei giorni feriali. Difficile affrontare il paragone e soltanto il filosofo, stranamente informato dal contesto, ebbe a sfoderare un frac in piena metropolitana. I passeggeri arrivati da chissà quale festa si strinsero intorno a lui, le signore coi turbanti e i signori uomini con ancora la voglia di ballare, e poi un'orchestra rapita dall'eterno cerchio dell'armonia, e il professore di filologia a quel punto dovette organizzarsi e cominciò a cantare, e il sufi va da sé a danzare con Tarkan ed Elissa in Kuzu Kuzu. Molto Kuzu. Molto Kuzu. Kuzu. Molto. Super Kuzu. Guardate come ride a buttar fuori. Oh, direttamente qua, miscuglio tra Anatolia e Arabia. No, qui Kuzu. Si inginocchia e dice ok. Tarkan Kuzu. Ne impariamo un'altra. Leggo sul nostro copione. Vabbè, io faccio Kuzu Kuzu. Vai, tocca a te Kuzu Kuzu. Michael Jackson. Ok, è Working Day and Night, è un pezzo bellissimo, senti. E chi lavora giorno e notte e chi governa solitamente, solitamente. Non siamo ai livelli di quello che diceva non spengo mai la luce, però insomma bene dai. E Italicum, lo so che non vi appassiona così tanto. Per fortuna oggi finisce. Ma sì, credo di sì, oggi sarà l'Em Day, che non è il Mattarellum Day, ovviamente, ma è Matteo Day. C'è un'altra fiducia? Fuoco, stai buono, no, c'è il voto finale. Meglio di Gambani, e quindi ci sarà il voto finale sulla riforma elettorale. Dopo questo passaggio, diciamoci la verità, Renzi ha tutto il tempo per pianificare una strategia, poi per andare a votare, ma anche no, intendiamoci. E tecnicamente la legge entra in vigore il 1 luglio del 2016, quindi prima di quella data non si va certamente a votare. Un annetto per pensare. E d'altronde sono solo 12 mesi, parliamoci chiaro, certo. Che tecnicamente sono 6 dal punto di vista politico, se certo. Tu metti l'eventuale decisione di andare a votare, la campagna sì, elettorale. Ci dimentichiamo eccetera. Che comunque la decisione di andare a votare la deve prendere il Presidente della Repubblica. Mattarella? Va bene, certo. Ma scusa, non è napoletano? Napolitano Forte ha dato un'intervista sui sindacati, bellissima. Posso solo ricordare il Presidente emerito, diciamo. Molto emerito. Sono come Bergoglio e Ratzinger. Solo che in questo caso comanda di più Ratzinger. Ancora una volta la Chiesa ha dato l'esempio. Però comanda di più quello in pensione. Tonici. Beh, io vi voglio solo rimettere insieme i pezzi del puzzle. Per dire che forse Renzi non ha ancora imparato a governare, ci vorrà tempo, ma di sicuro è un leader, perché ha azzeccato un filotto negli ultimi mesi pazzesco. Ha dato la stangata a Berlusconi sul Quirinale facendo eleggere Mattarella. Ha aperto l'Expo, ragazzi, diciamoci la verità, quando nessuno ci credeva, e oggi dovrebbe portare a casa l'Italicum radicalizzando la minoranza del PD non e pure dubbio. Le opposizioni. Vabbè, che sia un politico è fuori discussione. Sì. Devo dire che se uno li mette in fila queste cose ci sono. Comandare poi... è una cosa, governare è un'altra. Adesso? È un leader, va bene. Sara Tardelli, tu che ci racconti? Oggi è lunedì e tanti di voi saranno già al lavoro come me, altri sono in marcia per raggiungerlo, qualcuno magari sarà al supermercato. E anche oggi vi potrà capitare di avere a che fare con l'arroganza. Qualcuno che vi passa davanti convinto di averne pieno diritto, ovviamente, o un capo ufficio che ha un bisogno disperato di primeggiare, anche se è già primo perché è il tuo capo. Insomma, che cosa si può fare per difendersi dalle persone che la pensano come il Marchese del Grillo? Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un c***o. Ai più secchioni di voi consiglio un libro che si chiama Antispocchia, come ho imparato a difendermi dagli arroganti. Per chi invece non legge i saggi, gli esperti consigliano di ispirarsi ai matador che sfiancano il toro piano piano. L'arroganza si batte solo con sorrisi silenziosi, ironia e con la capacità di sfilarsi il più in fretta possibile dai confronti scontri. Quando invece gli arroganti siamo noi, facciamo finta di non conoscerci e togliamoci il saluto. 349-238-6666, voi come vi difendete dall'arroganza? Batto il piede in su, batto il piede in giù, giro mi rigiro, sembro Belzebù. Vabbè, aspettiamo gli sms per prendere qualche lezione di resistenza all'arroganza. Dura, e intanto Salamini. Tra i grandi successi di Matteo Renzi non è stato citato quello che insomma va ad aggiungersi negli anelli inanellati. L'unità torna in edicola. E questo è l'ultimo annuncio fatto da Matteo Renzi, solito a non fare mai annunci, piuttosto fa conseguire fatti senza mai anticiparli coi proclami. E a margine della festa dell'unità a Bologna, il segretario, erede del partito con la falce e il martello, quello di Peppone, ha fatto felici i militanti con questa bella notizia. Torna l'Unità, che è il giornale dove fu pianto il decesso del compagno Tito e anche del compagno Mao e anche di tanti altri compagni, ma dove mosse i suoi primi passi, anzi più dei primi passi, il nuovo direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. E il signor Premier, al modo di Peppone, ha messo il chi va là alle forze reazionarie in agguate, già indicando il nuovo direttore. E Gianni Cuperlo. E siccome la strategia di Renzi è lungimirante, tutto il miglior mondo del partito è mobilitato. Renzi non teme il pluralismo e Lui, avendo questo suo giornale, lo rende forte chiamando nelle colonne Rosi Bindi, Pierluigi Bersani, Sergio Cofferati, Pippo Civati e tutti gli altri. E quindi per chiunque voglia esprimere un punto di vista diverso, insomma, si va in edicola e il premier lungimirante ha già disposto ruoli e incarichi. Per esempio, a Enrico Letta, la supervisione della distribuzione della propaganda. Mentre invece a Luca Lotti, che è il suo fedelissimo, che è il suo sbroglia faccende, ha il compito di distribuire e somministrare acido lisergico a tutti i rappresentanti della minoranza PD per dare l'illusione di essere tornati, anzi arrivati nel paradiso dei lavoratori e quindi su compagni, su fratelli. Su compagni, su venite in fitta schiera, sulla libera. Posso? Chissà se cambierà anche bandiera rossa dopo aver cambiato Fratelli d'Italia. Va bene, lì non la tocca, intanto, quella non la tocca il compagno Renzi. Vedi, intanto, dato che Stefano ci accusa di essere Radio PD 24 a noi, e tutti gli altri ci accusano del contrario, è meraviglioso. Ci fa piacere, vuol dire che comunque un po' di confusione in testa la produciamo. Sì. E in ogni caso, se ci ascolta, siamo molto grati. Sentiamo il lunedì libro di Alessandra Fiori. Una volta finita una storia d'amore, come evitare il sottile ricatto della restituzione? Quel gioco perverso di recuperare, uno alla volta, oggetti, ricordi, dolorosi pezzi di passato che non tornerà, sfruttando così l'occasione di provare a capirsi fuori tempo massimo, ripetendosi ancora e ancora come e perché sia finita. Ma veramente è finita? Sicuro? Sicura? Meglio un taglio netto, deciso, come quello offerto dalla Final Cut, la ditta di trasporti fondata dal protagonista dell'omonimo romanzo di Vince Gallico, che si occupa di restituire gli effetti personali alle coppie appena scoppiate. La gente, scrive Gallico, è disposta a pagare per l'assenza di coraggio. È disposta a pagare se può evitare il dolore. È disposta a pagare pur di non guardare in faccia il fallimento. Ecco allora un tariffario che si adatta alle esigenze del cliente, dai 250 euro per la restituzione base fino ai 600 per i casi più complessi. Evitare lo stillicidio della restituzione diventa così l'occasione di un viaggio ironico e dissacrante nei fallimenti sentimentali, tra crisi, tradimenti, routine logoranti e sorprese imbarazzanti. Final Cut, l'amore non resiste, di Vince Gallico, candidato al premio Strega di Fandango Libri. Mix 24. Oh, well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody. George Michael, questa è la Fate, il suo primo grandissimo brano di successo. Allora, il Regno è unito o disunito? Perché qua adesso si vota. 7 maggio, elezioni nel Regno Unito. Chi vincerà? Boh, sai Giovanni che sono proprio in un testa. Sono testa a testa, sì. Sì, 34, 33, 35, 34, dipende dai sondaggi. Comunque il Labour è leggermente in vantaggio sui Tories, vediamo di un solo punto. UKIP è in calo, i Lib Dem sono a 8 punti, UKIP è a 12, i Verdi a 5. Sai che un po' tutto il mondo è paese alla fine, perché anche lì alla fine potrebbe non esserci una chiara vittoria e dunque saranno decisivi i voti del Partito Nazionalista Scozzese. Questo cosa significherebbe poi? Che un governo di minoranza probabilmente. Quindi come vedete Cameron e Miliband alla fine hanno gli stessi problemi di governabilità che ci sono in paesi come l'Italia. Certo. E dunque non è questione di Italicum, la legge è uno strumento, poi quello che determina il risultato però è la geografia politica. Certo, però questo... l'Italicum dovrebbe aiutare una governabilità maggiore. Insomma, secondo turno, premio di maggioranza, sono tutti accorgimenti che ci sono. Se posso dire la mia ulteriormente, la questione delle liste bloccate lascia il tempo che trova, nel senso che anche se non sono bloccate alla fine c'è qualcuno che deve candidare qualcun altro, quindi vedremo. Salamino. Ultim'ora, proprio notizie freschissime. Allora, i milanesi sono scesi in piazza e in una sorta di palingenesi dell'orgoglio civico hanno ripulito la città. Saranno pure passati Black Bloc, ma a colpi di Claudio Bisio, di Filippa Lagerbach, di Roberto Vecchioni, e altri uomini chic e femmine pittate, la città è tornata più bella e più forte che prima, ma non è finita, perché se Milano è linda, Roma si specchia nella perfezione. E l'ultima ora è questa. I romani sono tutti per strada, perché non sono passati Black Bloc per l'urbe, ma c'è sindaco Ignazio Marino. E perciò, da Trastevere a Tor Sapienza, da Tor Tre Teste al quartiere Parioli, da Flaminio in tutto il raccordo anulare, i romani, fieri d'orgoglio civico, stanno sistemando le buche nell'asfalto. Stanno facendo non solo la raccolta differenziata, ma stanno portando via la spazzatura e così anche stanno portando a termine i lavori di manutenzione, rendendo Roma ancora più bella. Non c'è Bisio, certo, ma c'è Claudia Mendola, non c'è la Filippa, ma c'è Sabrina Ferilli, non c'è Vecchioni, c'è Antonello Venditti. E se, come raccomanda Giovanni Marinetti, come raccomanda lui all'amico milanese con l'auto bruciata, gli si dice non fare il gufo, te la ricompri a rate con gli 80 euro, e i romani con le auto pignorate, tanto è insufficiente il contributo, non resta altro che fraternizzare alle fermate degli autobus, dove non passa nessun autobus, nessuno osa fare il gufo. Sergio Mattarella oltretutto è entusiasta, ha preso la botticella, ovvero la carrozzella, sì, ma per tutti resta il meraviglioso traffico di Roma. Ci siamo stati in mezzo al traffico di Roma. Ce l'hai presente, lo sai come funziona. T'è capitato, già lo sai da te. Se non ci sei mai stato, te lo dico io. Andrea da Venezia, per te Pietrangelo. Dica. Mamma mia, buttafuoco, che gufo. Senti, ma Sara, questo libro antispocchia, come difendersi dagli arroganti, niente sms, non ti rispondono? Niente, ancora? Scrivimene uno tu. No, io no. Uno ha risposto con l'indifferenza, comunque. Ah, sì? Va bene. Allora ancora una bolla, sì, Mario. Faccio il buttafuoco. Oh, Franz Liszt. La Sinfonia di Dante. Per dire che cosa? Che sono 750 anni dalla nascita del poeta dei poeti, che ha superato ogni confine e vanno festeggiati bene. Ricordatevene, leggetelo e non Dante, ascoltate le Radio manipolazioni. 24, no, Radio 24, che noi sempre sintonizzati. Senti, oggi è un giorno importante per la memoria del calcio italiano, vero Marina? Marina Milone? Sì, Giovanni, oggi... Che cosa ci racconti oggi, nella seconda ora? È una storia drammatica che ha commosso l'Italia intera. E nel giorno, come dicevi, dell'anniversario della tragedia di Superga, nel quale perse la vita il grande Torino, reduce dalla vittoria di ben 5 scudetti, vi raccontiamo quella commozione che travolse l'Italia, appunto, celebrando con questo ricordo anche la vittoria di oggi, dopo ben 20 anni del Torino nel derby della Mole. Con noi c'è Giampaolo Ormezzano. Bene, benissimo. Allora, nella seconda ora avremo, come avete sentito, la storia del grande Torino. E prima della pubblicità è già di Vasco Rossi. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via.